Isterici, isterici. Programma di Capitano. Oh, K, il bambino Sallusti condannato a stare 14 mesi in casa della Sant'Anchè. Sì, ma a volte le sentenze vanno lette bene per capire la gravità. Beh, rischiava il carcere, quindi. Appunto. Appunto. Ma cos'è meglio, il carcere o la Sant'Anchè sempre attaccata lì al culo? Ma figurati, dai, la Sant'Anchè. Sallusti, guarda che. Guarda che. Ma lei è sempre in giro, impegnata di qua e di là, non c'è mai. E Sallusti? Sallusti se ne starà in casa da solo, tutto il giorno al computer. Ma che palle. Sì. Ha detto che lavorerà però, Finalmente vedremo se il telelavoro funziona anche ai livelli dirigenziali, perché se ne parla sempre, nessuno mai lo fa. Stavolta ma vediamo. Ma Sallusti, tutto il giorno davanti al computer deve essere alienante. Uno pensa, vabbè, faccio un lavoro alienante, però poi di sera mi diverto. Invece di sera arriva la Sant'Anchè. Sallusti, allora, dovevi essere. Se fossimo dei veri perfidi, però, potremmo fare una sitcom burlesca sulla famiglia Sallusti Sant'Anchè. È vero. Però ci penseranno i colleghi della TV, perché quei due lì sono qualcosa soltanto se li vedi. Cioè, l'audio non rende, anche come audio, però se li vedi, insomma. Secondo me è già pronta la parodia a luci rosse tipo Nosferatu e Wonder Woman Sadomaso. Nosferatu e Wonder Woman. Vabbè, sì, ormai sembra, diciamo, no? Che infatti si è già detto e fatto di tutto sul bambino Sallusti e sulla Sant'Anchè. Quindi chiudiamo il sipario e non riapriamolo nemmeno più. Ma lei lo chiama Sallusti o lo chiama Nosferatu? Nosferatu! Alessandro anche, no? Alessandro? Chiedo asilo! E ora, bambini, ricreazione! Senti, lo chiamiamo questo qui per sapere della letterina, se è arrivato. Sì. Allora. Pronto? Sì, sono il bambino Alberto. Chiamavo per il tracking number. Il tracking number. E no, perché Gino mi aveva assicurato che la spedizione era monitorata, no? Che dice così, monitorata. Ma lei è italiano? Italiano! Vabbè, allora aspetto a conferma. No, vabbè, ma bambino Alberto, adesso di cosa stai parlando? Il tracking number, lei è italiano? Il tracking number. Con chi far fugli? Allora, a parte che sarebbero cose che non ti riguardano direttamente. Fino a qua io e Gildo. Comunque sto controllando se la mia letterina Babbo Natale sta viaggiando regolarmente verso la Finlandia. Vi ricordate che... Sì. La letterina, certo. Plico da 3 kg. Per forza. Allora, per evitare le solite scuse, questo gioco è esaurito, quest'altro arriva dopo. Ho scritto 350 piccoli desideri, no? Sì. Tutto su carta patinata, una roba pesantissima, tra l'altro, è un plico. E quindi, e a parte questo, comunque, siccome in posta non arriva lo sportello. Sì. E il corriere costa troppo, costa una cifra folle. Ho chiesto aiuto al Gino, il bidello. Che adesso non è più il bidello, perché è il domiciliare, no? Però c'è sempre il suo numero. Lui è un vulcano di idee. È vulcano, tu lo conosci. Un vulcano, allora. Vulcano di idee che l'ha portato ai domiciliari. Vabbè, comunque. Allora non puoi più parlare. Vabbè, dai, comunque cosa c'entra? Scusa, Drago. Basta un piccolo inciampo con la giustizia per perdere il diritto di esprimere opinioni. Ma non puoi nemmeno diventare il padre spirituale di un bambino che va all'asilo, no? Voglio ma dire. Perché finché un bambino, dai, sono bambini. Sono bambini. Allora, senti un po'. Intanto Gino mi ha risolto il problema della spedizione. Bravo. Perché mi ha dato il numero di telefono di un suo amico, no? Che fa spedizione in proprio, no? Un padroncino, come si chiama? Proprio. Sì. Ma scusa, ma prima eri al telefono con lui, in proprio? Sì, è questo tipo qua. Wolfgang si chiama. Ah, non è italiano. Non lo so, Wolfgang, non Gorgar. Ma è un corriere abusivo, cioè, visto che... Che abusivo, ai domiciliari... a infangare. Ma no, ma chiedo. Sì, allora, qui c'è una ragione. Siccome in Italia per fare qualsiasi cosa c'è un sacco di burocrazia. Sì, calmati. Okay. Allora, lui snellisce le procedure. Ah, snellisce, va bene. Qui tutto a voce, niente di scritto, roba moderna, no? Roba moderna. Ma scusa, ma poi dopo come fai a sapere che è stata consegnata un documento? Adesso c'è internet. Ma il tracking number te lo dà così a... Allora, adesso io gli ho chiesto il tracking number. A voce, no? Così in ogni momento posso sapere esattamente dov'è la letterina. Ma ho capito, ma gli chiedi il tracking number, ma non esiste niente di scritto. Infatti, vi siete dati la roba a mano così. È tutto un accordo solo verbale, no? Cioè, Wolfgang, che è lui. Wolfgang, vabbè, Wolfgang. Sì. Lui non dà e non riceve nessun documento ufficiale. Beh, questo è un suo vanto. Mi ha detto che adesso non riesce a mandarmi il numero, no? Però ogni volta che lo chiamo lui mi dice dov'è, no? Meglio così, addirittura lo chiamiamo, Gildo. Lo chiamiamo, lui dice, uè, sono qui in Finlandia. Dico, bene, bene, lo sappiamo. Quando è arrivato in Finlandia, vabbè, insomma. Ma adesso che gli hai parlato, dov'era? Non per lo esempio? So. Ah, vabbè. Lo sai. No, adesso? Adesso stava, era su un valico, stava attraversando tra la Svizzera e la Germania. Vabbè, sì, così. Ma tu l'hai pagato o ti fa un favore? Che è un amico di Gin? Ma com'è? Che favore? Non fa niente per niente. Anche questo è un suo vanto. Sì, niente documenti ufficiali e niente forza, presenti. Sì, capisci? Ho capito. Io gli ho dovuto far trovare una busta con 50 euro, no? In contanti, vabbè, in contanti, euro, un cestino da spazzatura in una piazza. Ma perché? Ma potevi dargli... E tanto per capire con che soggetto professionista abbiamo a che fare, mi ha lasciato anche un bigliettino con scritto seguirà ricevuta. Così. Non so se mi spiego. Seguirà ricevuta. Senti. Quindi, non... arriva tracking number, arriva ricevuta. Sì, bambino Alberto, adesso non... Non prendertela, bambino Alberto, adesso calmati, non prendertela, però tu sei sicuro che la tua letterina sia in buone mani? Perché io lo dico per te, però mi sembra che una cosa del genere... Allora, guarda, io capisco le tue perplessità perché fai fatica a entrare la nuova, questa roba moderna, ma te le tolgo subito. Allora, io ho il numero di telefono di Wolfgang, basta chiamarlo per sapere a che punto siamo. Senti, te lo faccio fare qua in diretta? Fai, senti, dai. Allora. Pronto? Wolfgang? È Wolfgang, è Wolfgang. Sì, c'è anche Gildo. Sono il bambino Alberto, c'è Gildo. Allora, dove sei adesso? In Germania? Sì, deve essere una pizzeria italiana, perché sottofondo sento parlare in italiano, senti. Televisione, questa è Tele Lombardia, questa cosa. Vabbè, ma Tele Lombardia. Tele Lombardia in Germania. Ma forse col digitale terrestre, non lo so, però vabbè. Ma non è un modo per confermare veramente che Wolfgang o Wolfgang sia davvero in Germania? Cioè, magari stavolta Gino il bidello, ma magari non ti ha consigliato tanto bene. Perché, hai capito? Perché? Magari Wolfgang non si è mosso da Milano. Boom! Ma secondo te? Boom! Per dire cosa dici? È un modo di dire. Ma chi parla? Ma bambino secondo Alberto, te? Va bene che sono un bambino, ma fesso no. No, Aspetta, te lo richiamo. Allora, dai, pronto. Wolfgang? Wolfgang. Ho capito bene che sei in Germania? In Olanda? Ma non è su un jet. Ma non è in Germania 5 minuti fa? È su un jet. Ma no, non ti arrabbiare. È che sono in ansia per la letterina, no? No, mi fido. Sì. Adesso in Olanda, in un bingo italiano. Senti, in un bingo italiano. Senti che strago i numeri. E dicono in italiano, siete così, siete che soffra di saudade, no? Perché noi italiani siamo così, no? Andiamo via dall'Italia, ci manca subito a pizza e mangiare. Ma qui come si mangia? Qui si mangia male. Come si mangia a casa mia, non si mangia da nessuna parte, allora? E entra in un bingo, no? Questo Wolfgang qua. E non è italiano, ma lui non è austro-ungarico. Mi sembra che fosse austro-ungarico. È italiano. E la saudade. E se lui è austro-ungarico, perché la saudade e va nel bingo italiano? Bingo! Vuol dire che. Gino. Bingo! E mi ha fatto bingo. Bingo! E Wolfgang ha fatto bingo. E 50 euro qua di fianco. Nel bar dietro l'angolo. E i miei 50 euro, tutti nelle macchinette, ti. Wolfgang! E ormai... Quindi? Bingo! Chiedo asilo! Dicembre, ecco... Allora, ci sei o no? Basta far casino, cosa vuoi? Foglietti lì, le cose. È cominciato dicembre, giusto, Drago. Quindi... E come da tradizione intoneremo una canzoncina dedicata al dicembre. Quale tradizione? Poi soprattutto non conosco canzoni dedicate al dicembre. Ma pensaci bene. Ma giuro, non ne conosco. Ti dico solo una cosa, George. George? George. George Harrison? No, l'altro George. No, chi è l'altro George? George Michael. Ma George Michael ha fatto Last Christmas. E già Last Christmas, cioè lo scorso Natale, l'abbiamo rievocata, l'abbiamo anche usata nello spettacolino. Non è una canzone su dicembre, sul Infatti Natale. Infatti non sto parlando di Last Christmas, ma di? Non lo so, che ne so. Drago, dai, December Song. Ma cos'è December Song? Ma come cos'è? È un'altra roba natalizia di George Michael. Ah sì, non lo sapevo. Sì. George Michael alla fine è molto legato a Natale. Sì, gli piace Babbo Natale, l'orsetto. Sweet December song. It's December. The melody that saved me. Yeah. On those less than silent. Non la so comunque. Canta bene. La ricordo. Vai, vai. devi immaginare di essere, capito, in funivia con George Michael. Funivia con George, ma di nuovo, no, comunque, dai, la funivia. Ma immagina, Wyoming. George, quell'altro, Clooney, non sa dire puoi, ma quanto lo pagano? Ma... almeno puoi. Mancano 18 giorni alla fine del mondo.